doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looked sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Your eyes looking like the ball's popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, growing. I looked at the mirror, I caught the driver drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty, but this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. Ora 19.02, sta per iniziare sugli 87 di Radio Onda Rossa, martedì 8 aprile, una nuova puntata di Likewise. बात बनी सा संगठन में हमारी इतनी शक्ति है कि हमसे अब तुम्हारी फटती है Dalla saga che pinclo per un'oretta di musica insieme. Supera Namara. In the cusp of 2022 blossoms a feminine revolution. Spreading positivity and light. Every day a woman's day, every day a new fight. But we play and we play. We're doing okay. We're doing okay. Doing okay, doing okay. Questa è la nostra sigla di quest'anno. DMC, Wild Wild Women, insieme al Einstein Producer, per accompagnarci in questa quarta stagione di Likewise. Likewise è una selezione di nuove uscite di artiste, artiste, donne, trans e non binary, prevalentemente produzioni indipendenti, con una manciata di racconti, notizie e storie come piacciono a noi. Ci potete scrivere a likewise@ondarossa.info o iscrivervi al nostro canale Telegram likewise_trx per ricevere podcast delle trasmissioni che avete perso oppure per ascoltare le nostre playlist. E potete telefonarci in diretta fino alle 20 allo 0649 1750. Vi ricordiamo di chiamarci mentre sentite le canzoni e non mentre ci sentite parlare, perché non vi possiamo rispondere. Perché siamo vere, siamo vive e siamo in diretta, quindi non vi possiamo rispondere. E siamo in direttissima, cominciamo? Cominciamo con una nostra amata che torna con un nuovo lavoro che uscirà il 9 maggio, Little Sims Float. As I walk this wicked clown, keep me away from the devil's palm. I am the How dare you? I was shutting down the world and it scared you. Can't hold a girl down, it's this bad. She ain't nice on my nose and my hair, dude. Not the type that would trip off nostalgia. Too nice, but my silence is louder. Spend off, but my finance is louder. I'm not the type to abuse all my power. Questa era Lil Sims Flood. Ci piaceva cominciare questa puntata con una delle nostre beniamine, che appunto, come preannunciava Pinklo, uscirà a breve con un nuovo album. Questo pezzo, la voce che abbiamo già visto, e il flow che abbiamo già sentito in pezzi precedenti, in collaborazioni precedenti con Lil Sims, di Obongyar, e in questo caso c'è anche la cantilena, la filastrocca di Moonchild Sunley, che è anche, insomma, anche lei una nota da queste parti, visto che uno dei suoi pezzi è stato la nostra sigla per una stagione. Verissimo, l'album uscirà il 9 maggio, si chiamerà Lotus. L'EP era l'ultima cosa che avevamo ascoltato di Little Sims qui a Likewise, era Drop 7, che è finito anche nei nostri best 2024. Chissà che cosa farà questo nuovo disco in arrivo, ma già i singoli, diciamo, che ci piacciono molto. No, decisamente, diciamo, la cosa più rischiosa di questo periodo della vita, ovviamente della vita professionale di Little Sims, è che l'esplosione di notorietà di cui ha goduto gli ultimi due lavori, No Thank You e Sometimes I Might Be Introvert, proprio visibilità incredibile. Basta pensare che, insomma, è stata sul palco con Coldplay, tanto per dire, che è una delle band, penso, più note nel mondo in questo momento storico. Un po' faceva spaventare, no? Adagiarsi su certe cose, spingersi un po' sul pop e quindi andare un po' nelle cose più comode e anche più sicure possibili. Non ha fatto niente del genere, almeno nelle cose che sono uscite fino adesso e che preannunciano quest'album. Sicuramente, anzi, probabilmente c'è anche una variazione, una virata verso qualcosa anche di più scuro rispetto a quello che stava facendo prima. Quindi, insomma, siamo molto molto curiosi. E anche forse di più soul, new soul, perché questo pezzo che abbiamo di sottofondo in realtà è molto molto particolare, molto diverso da queste cose che ascoltiamo sue, che ci piacciono molto. Vedremo. Secondo pezzo della scaletta di oggi, loro sono Maol, DMAM. Just a joke, control the fucker. What if I said I didn't mean it? nostre band preferite irlandesi, Meol, che insomma passano spesso da queste parti. No, sono passate, ho guardato oggi ogni stagione. Sì, ogni stagione, perché proprio a me fanno impazzire. Io non vedo l'ora che esca questo album. Questo è il secondo singolo che facciamo ascoltare. Il primo è uscito un po' di tempo fa, intorno all'80esima puntata nostra, quindi insomma un po' di tempo fa. Sta per uscire il, insomma a metà maggio uscirà il loro album. Io non vedo l'ora. È una delle mie band preferite, soprattutto perché mi piacciono molto questi ritmi un po' ansiogeni, un po' incalzanti, un po' che sembra che stia per partire un pezzo che non parte mai, no? Che è un po' e la caratteristica, esatto. E quindi resti sempre sul pezzo, sul con questo bassone super bello, molto, cioè da un suono molto peculiare, ed è appunto una di queste caratteristiche me le fanno amare moltissimo. Una band, come dicevamo, che viene da vari posti dell'Irlanda, loro si definiscono femminista intersezionale, quindi insomma nei temi, nella, diciamo, nel modo di porsi politicamente, ma in quello che fanno, e in più nella musica fantastica. Sono una delle nostre band un po' beniamine, no? Esatto, sì, anch'io avevo scritto esattamente questo, che noi siamo molto affezionate a questo gruppo. Le avevamo appunto sentite già con il loro disco di debutto Attachment Style, che è uscito nel 2023, prima ancora con l'EP che si chiamava Gender Studies, proprio la primissima stagione di Likewise. Chi ci segue da allora, ciao, grazie. Però comunque magari se lo ricorda anche questa canzone che abbiamo sentito, che si chiama DM AM. I DM sarebbero i direct message, cioè i messaggi diretti nei vari social, ed è ovviamente una canzone di denuncia, di anche scassamento di vai, lo possiamo dire in diretta. Certo, lo possiamo dire in diretta anche di noi donne, quando appunto, per fortuna a me non mi è mai successo, sono tempestate, però ho sentito tante testimonianze dei messaggi privati di uomini che rompono le scatole sui social, e che se tu ovviamente poi dici no, guarda, no, che fanno loro? Si arrendono? No, figurarsi, quando mai. E invece cominciano a romperti molto, in maniera molto aggressiva, e quindi questa canzone un po' racconta tutta questa faccenda qua. Penso che un bel po' di gente un bel po' di donne si potrebbero ritrovare in questa canzone, magari metterla ogni volta che qualcuno rompe, proprio mandare il video dentro i messaggi diretti, e non se ne parla così, più chiaro di così non lo so. Più chiaro di così non si può. Si chiamerà Something Soft, uscirà, come stavamo dicendo, il 16 maggio il loro album per la Merge Records. Terzo pezzo lo annunci tu? Terzo pezzo ho cambiato, te lo dico, sì, no, lo so che hai cambiato, okay. che era quella che avevamo un po' scelto, perché in realtà l'EP è bello tutto. Ascoltiamo Anushka Shankar con Daybreak, mi sembra che si chiama il pezzo. Daybreak. Thank you. Questo era il sitar di Anushka Shankar con il pezzo Daybreak, che è tra l'altro il pezzo che apre questo EP che si intitola Chapter 3 We Return to Light, uscito per l'etichetta Light, che è un'etichetta tedesca fondata da Nils Fram, pianista, compositore, tanto per intenderci dove è uscita e dove pubblica normalmente Anushka Shankar. Questo terzo capitolo chiude questa trilogia di EP, fondamentalmente sono dei mini album dedicati al ciclo di guarigione e rinascita, mi verrebbe da dire, insomma, ascoltando sia le parole di Anushka a riguardo, sia appunto gli EP che abbiamo ascoltato, in realtà scritto insieme ad Alam Khan e scritto e prodotto insieme a Sarati Kowar. Sarati Kowar in particolare è un batterista e produttore, oltre che compositore indiano, trasferitosi a Londra, che è uno dei protagonisti un po' della scena contemporanea del new jazz, quindi insomma anche la scelta di collaborare con musicisti con cui poi Anushka si accompagna anche dal vivo ultimamente, che in qualche modo danno anche una spinta diversa rispetto ad alcune delle cose, perché Anushka in realtà è una musicista veramente molto molto variegata. Diciamo che poi porta un po' avanti, gli americani direbbero la legacy, o comunque insomma l'eredità musicale e culturale del padre Ravi Shankar, non è a caso la fondazione eccetera, quindi anche in realtà lei già suonava col padre, che lui era ancora in vita, ha prodotto anche dei dischi con lui e adesso sta producendo anche tante cose sue, quindi ci sono tantissime cose che si possono trovare sue. Secondo me questa trilogia di EP comunque è molto molto interessante, molto bella. Questo che è uscito, We Return to Light, che è uscito il 14 marzo, io l'ho ascoltato parecchie volte in queste 10 giorni. A me piace molto, sarà che comunque il sitar in qualche modo è uno strumento che non so perché ma mi prende. Ma il sitar è uno di quegli strumenti che lo odio, lo ami, esatto, nel senso che comunque ha un suono, le corde abbastanza metallico, quindi è uno di quei suoni che o ti danno fastidio, cioè comunque alla lunga non riesci a sopportarlo perché non ti appassioni, oppure ti piacciono perché toccano delle corde profonde. Credo sia così. E chiaramente poi ricordiamoci che è arrivato in Occidente un po' portato sulle braccia e sulle spalle del grande amore per l'India degli anni 60, i Beatles, quello e quell'altro, poi forse un po' è scemata questa anche un po' moda, però in realtà è uno strumento molto importante nella musica classica dell'India settentrionale, quindi lei Anushka Shankar porta avanti un grande pezzo di cultura e lo porta anche nel presente e nel futuro musicale, e sono delle composizioni molto interessanti. Il prossimo pezzo di oggi, il quarto pezzo della scaletta, c'è numero 109 tra l'altro, di Likewise. Lei è un albumone, cioè proprio a palletta ve lo dovete mettere, non ci sono scuse. Lei si chiama Queen Heroine, Anxiety. Drifting through the thick of it, slow its wicked grip, got me sitting still. Therapist suggesting prescription pill to tame it, don't wanna claim it, carry shame shit, but it's in the pit of me, can see it vividly, don't give it legitimacy, awkward even talking about it, walking around it tiptoed, but zip-lipping implode, so info, we intro to pin code, resolution, stay stressed, hard to rest without restitution, fight or flight, I wanna rest, trust, but gotta be the best of, so rest what, chest up, round, tough, ride or die, pedagogy with guys, robbed you dry, needing KY to ride the slide, a mode of motion, slippery slope, interesting trope, leave you feeling broken side post, giving all you have aside from pride, no longer soft and feminine, how to cope when hope subsides, I'm reckoning, I got anxiety, it really sucks, I take some deep breaths to not erupt, I got anxiety, like what the, I meditate to level up, bridges and heights, gripping for vice like sipping whiskey on ice. Therapy when I write these melodies, it softens memories of trauma bonds and karma scars. Tired of masking pain, comic con, come on, face the pain head on. Pardon me if the pen drawn in overdrive to your mind, just trying to free my mind and vogue, praying the rest follow. At times we feeling hollow, hard to swallow, palms sweaty, arms heavy, ain't we there already? Breathe steady, inner child reaching for teddy, not sleeping, limited REM, eyes red, releasing cortisol from caught in awe, anyone caught in awe, instead absorbing it all, a regular sponge, put it in puns, double entendres, coupled with a couple of mantras, sending love to all those who deal with things like this that haunt us. Yo, I got anxiety, it really sucks, I take some deep breaths to not erupt. I got anxiety, like what the, I meditate to level up. Yeah. To level up. It really sucks. Like what the, what the, what the, I got anxiety. I got anxiety. Queen Heroin, Anxiety, questo sospirone o questa ispirazione, non si capisce bene, finale è molto chiara. L'album si chiama Awaken the Sleeping Giant, svegliando il gigante che dorme. Uscito a febbraio per la Matic Records, una grande produzione, un fantastico, veramente fantastico album, un veloce ascolto, sono un totale di 10 pezzi per la durata di 32 minuti complessivi. Qui sinceramente avremmo potuto scegliere un pezzo a caso e non ci saremmo mai sbagliate, cioè non c'era l'imbarazzo della scelta, perché andava bene qualsiasi cosa. Awakening Sleeping Giant parla di risvegliarsi alla propria essenza, come dice la stessa Queen sul suo sito. È un album che è per lei una memoria musicale, quindi insomma lei è come... probabilmente sapete, un artista hip hop che fa parte di un collettivo musicale da tantissimi anni che si chiama Juggernauts, e questo insomma è un ulteriore, perché ce ne sono altri lavori solista. Sì, esatto. Infatti questo disco esce a tantissima distanza dal suo precedente debutto come solista, se vogliamo parlare di debutti, perché poi sono appunto un po' etichette, nel senso che suona appunto dentro il collettivo. Però il suo lavoro solista, il primo, è uscito 10 anni fa, e quindi nel mentre comunque lei è un'artista visiva, è una documentarista, è anche una docente universitaria in realtà, quindi fonde dentro la stessa persona diverse anime, diversi lavori, diverse anche battaglie politiche, e quindi lavora tanto sul campo. Questo disco, i testi di questo disco lo dimostrano ampiamente, super super, ascoltatevelo. Quindi se vuoi venire a suonare per la festa della radio, guarda, saresti un headliner fantastica proprio, cioè ci faresti proprio felici, non lo so, se stai in ascolto, poi, se qualche amico di Queen Heroin è all'ascolto, per favore, se ci può dare il tanto contatto. A stare in America in questo momento è inutile, inutile, venisse qua da noi, portoni aperti proprio, ma tutto proprio. Quinto pezzo di oggi, dai che siamo quasi in orario, vai. Quasi dico in orario, io, sì. Dici tu? Non so, hai cambiato canzone. Allora lo devi. Sing One, Sumac, Moon Mother. All I know is hate, hate to the OD. And all they do is kill, they don't want us to breathe. World full of snakes, so you gotta move at ease. More need of all, I don't believe in make believe. Haters in my face, god damn, let me breathe. All I know is hate, hate to the OD. And all they do is kill, they don't want us to breathe. I want my breath back. Passing through checkpoints of war crimes, we call for a boycott. No more lies sold cheap. Our cries seem weak. They don't believe. They don't believe. They don't believe. They don't believe. Didn't demand more from a democracy of monsters. They told you to turn down that music or they'll shoot you. They told you not to walk, not to run. In their neighborhoods they'll shoot you, execute you, young, old, friend or foe. We so obedient. At Walmart buying guns just to believe again, just to believe again, just to believe again, just to believe again in a lie that was never true. Does America love you? Does Germany love you? Does Australia love you? Does England love you? Did they love you when they censored your voice? Did they love you when you were getting terrorized and lynched? Did they love you when they took centuries to apologize for enslavement? Are we complacent? These times, pain illustrated. Congress done split they head on pavements and are refusing medical treatment. Like sly stone falling from the sky. This game been broken backs and black eyes. That's why we don't believe. That's why we don't believe. We don't believe. We don't believe. We don't believe. Can't see a future. Educated men on the balcony can't see the shooter. Bankrupting an education system can't find the looters. I blame the House, soulless body of representatives. Can't feel the flames. Can't feel the ghouls and demons eating at their flesh, their brains. So we don't rest. Frankenstein, Austria, just another corpse the devil bless. Another death vessel. High fidelity H and all block, another cop knocking on our door asking, can we please stop existing? Found my face missing, I scream, I'm right here, I scream, I'm right here, I'm right here, but they don't believe me, they don't believe me, they don't see me, ghost currency already spent, bomb, bombing, bombing imminent. More Mother, in questo diciamo pezzone che è credo il secondo singolo, no, il primo singolo uscito, insomma, che preannuncia l'album, questa grande collaborazione da una delle artiste più prolifiche di questo momento, che è More Mother, poeta, attivista, musicista americana, con Suma, che appunto collabora con la band, supergruppo Suma, con questa, diciamo, come si può dire, somma di vari componenti di anche vari band. Generi musicali. In che senso? Sono un po'. Penso siamo più più o meno tutti provenienti dalla scena post metal, e che hanno, che appunto sono riuniti in questo super gruppo che si chiama Sumac, e la collaborazione è molto interessante, come avete potuto sentire. No, infatti dicevo la collaborazione. Ah, ok. Sì, certo. Beh, Murmada comunque viene da queste sonorità in qualche modo sperimentali, punk, post punk, metal, goth, quindi insomma, comunque è un tappeto sonoro sul quale lei si muove bene, la sua voce si muove bene, le sue liriche si muovono bene. L'album collaborativo si chiamerà The Film e uscirà il prossimo, in realtà la settimana prossima, il 15 aprile, per la Thrill Jockey. E sono usciti in realtà due singoli, l'altro lo state, esatto, lo state ascoltando in sottofondo, e andrà ad arricchire la non so se il 15 o il 25 aprile, non mi ricordo, andrà ad arricchire la nostra playlist di B-Sides, di quelle che non ce l'hanno fatta, che ormai anche però ce l'hanno fatta in realtà, ce l'hanno fatta, quelli che ce l'hanno fatta comunque. Il B-Side che ascoltiamo tra l'altro è interessante perché c'è un'altra collaborazione ancora, che di Candice Hayes, che è una soprano, quindi un altro pezzo ancora molto particolare. Le soprano produttrice, cantautrice, regista, archivista, perché come al solito sapete, se non fanno 73 cose noi non paghiamo le bollette in genere. No, esatto, non paghiamo le bollette, però a loro piace anche spaziare molto anche su posti e generi diversi, e quindi è interessante anche quel pezzo, la sua voce come entra. 19:35, state ascoltando Likewise, questa è la puntata numero 109. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in dub da Perugia, che ci ascoltano in dub da Terni, che ci ascoltano in streaming dal sito www.ondorossa.info, dove vi ricordo che trovate primo in home page radio abbonamento. Là, subito. E fermiamoci un attimo. e fermatevi voi, soprattutto. Fermiamoci tutti un attimo. Anzi, diffondetelo. Sapete, è partita la campagna di radio abbonamento a ridosso del compleanno della radio, che come sapete è il 24 maggio. È il 24 maggio, è nata nel 24 maggio del 77, per chi fosse all'ascolto e non lo sapesse. E quindi sapete che abbiamo molto bisogno di voi. Sul sito, se cliccate su radio abbonamento, tra l'altro c'è una lunga spiegazione del perché vi chiediamo di aiutarci economicamente, quali sono le spese che abbiamo bisogno di condividere, di aiutare, che venga insomma un aiuto per poterle sostenere da parte di un'intera collettività. E oltre a quello, poi se cercate Likewise trovate anche i podcast, e salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano quindi in giro. Sì, a proposito, a visto che appunto siamo in dub a Perugia, salutavo Turba, che insomma ci ascolta, il centro sociale occupato e autogestito di Perugia, insomma, che ci ha anche ospitato recentemente, quindi insomma un abbraccio ai compagni, alle compagne e compagni di Turba. Tra l'altro vi voglio ricordare che sostenere la radio vi conviene anche perché se andate a cliccare sulla gallery del radio abbonamento su Produzione dal Basso, potete guardare anche i regalini che vi facciamo se vi radioabbonate, e quindi insomma c'è proprio una figurina addobbata con le cose che potete raccogliere e che potrete raccogliere in uno degli eventi prossimi della radio, cioè il 25 aprile oppure durante il nostro compleanno, quindi mi pare che non ci avete scuse. No, e poi il nostro compleanno saranno 3 giorni di festa, 23, 24, 25, ve lo anticipiamo, il 23 c'è un brindisi sotto la radio, aspettando ovviamente scaramanticamente mezzanotte, perché non si brinda mai prima per i compleanni, non si sa mai, che già mi sembra che la situazione è difficile, e quindi vi aspettiamo. Prossimo pezzo, lei si chiama Samara Sin, Pop and Olive. Yeah. find a trap in a jaw deeper. Off the radio, sing a la-dee-doo. Mugshot, if you catch me, get a candy. No falling, we just crash landed. Hightailing from the night till the morning. The roof gone, just like the drop top yawning. We could go slow. Open Olive, Summer Scene, questa giovane, giovanissima e diciamo astronascente del rap, nuova collaborazione con Sherwin, accompagnata anche da un bel video girato da Luciana Baldovino. E che dire, insomma, a noi ci piace, l'abbiamo già messa altre volte, abbiamo già detto molto di lei, insomma. L'abbiamo messa con l'album di debutto che è uscito a ottobre del 2024, una decina di puntate fa, quindi in autunno, che si chiama The Drive Home. Questa canzone, secondo me, è una canzone proprio di quelle da primavera. Da tramonto di primavera, tardo pomeriggio, in bicicletta mentre guardi, non so, il parco degli acquedotti, insomma. Viene in mente un parco, parco che c'hai, cioè, un parco, ognuno c'ha il suo. Vabbè, ognuno c'ha il suo, io c'ho quello vicino. Ognuno c'ha il parco che si mette. Settimo pezzo di questa scaletta, questa è Radio Onda Rossa. Potete chiamarci allo 06 49 17 50, come ha fatto poc'anzi un nostro ascoltatore, per ricordarci che sì, vabbè, l'America se la passa male, ma manco noi proprio. No, neanche noi ci facciamo queste grasse. Ma ci siamo messi d'accordo e glielo spieghiamo dopo a Queen Heroin, se tanto viene. Facciamola venire. Facciamola venire e poi glielo spieghiamo con calma, le raccontiamo un po' come stanno le cose anche dalle nostre parti. Molto male. Settimo pezzo di oggi, lo vuoi dire tu? Lo dico io. E Backwash, Ninth Heaven. Funny, but where is all the promise that he claimed is all? She Ashanti Mutinta, al secolo backwash, o al contrario, insomma, dietro l'appunto backwash si nasconde il Ashanti Mutinta, quest'artista che diciamo chiusa una trilogia molto importante in cui diciamo la sua il suo stile di rap si è fuso con un sacco di sonorità, sicuramente rispetto a questo album più metal, più distorte, anche più urlanti. Quindi chiusa questa trilogia, che se ve la siete persa andatela a recuperare immediatamente, non voglio neanche che finiate di ascoltare quello che stiamo dicendo, diciamo ritorna, ha dei titoli lunghissimi ogni disco, ritorna con questo album bellissimo, si chiama Only Dust Remains, solo la polvere diciamo resta, ed è veramente un anche qui un lavoro dal quale potevamo pescare uno qualsiasi dei pezzi proposti, Black Lazarus per esempio in sottofondo, ma veramente con uno qualunque dei pezzi di questo album e saremmo andate comunque a colpo sicuro. Sì, devo dire che questa sera abbiamo ascoltato diverse rapper, sono usciti diversi dischi in questo periodo molto interessanti e sono un po' confluiti in questa puntata, sapete, un po' casualmente, un po' no. E, esce per la Ag Records il suo terzo disco, terzo no, non è il terzo ma è, credo il quarto, forse anche di più, e, a parte la trilogia. La trilogia è 2020, 2021 2022, è tutto una cosa che secondo me va ascoltata, è tutto un progetto che va ascoltato in maniera completa e complessiva. God has nothing to do with this, leave him out of it. I lie here buried with my rings and my dresses, and his happiness shall come first, even though we are suffering. Cioè praticamente sotto tre poesie, tre sentenze, tutte e tre che raccontano questa trilogia. Penso che ci sia molto da ascoltare, anche molto da sapere. L'album tocca, questo album nuovo tocca i temi del lutto, della riflessione, della speranza, mentre quelli passati, se vogliamo quelli della trilogia, approfondivano dei momenti insomma della vita, dei temi dell'identità, della spiritualità, delle lotte personali, contesti molto introspettivi. Quindi ve la consigliamo. Ma anche sì, introspettivi fino a un certo punto, cioè si parla anche di Gaza, si parla anche di Palestina, si parla anche di boicottaggio, si parla anche di, diciamo, del sentirsi sempre migrante per il colore della pelle che si ha, insomma, cioè ci sono anche, è introspettivo, ma ci sono anche temi legati a quello che succede in questo momento nella nostra storia e nella sua storia. Quindi insomma sì, sicuramente un album, io ve lo consiglio, cioè mettetelo a palletta questo, Queen Heroin, e questo sono sicuramente due album che meritano un grande grande grande ascolto. E no, ma io dell'introspettivo mi riferivo alla trilogia, non alla trilogia precedente. Sì, ok, lavoro. Allora mancano 10 minuti alla fine del programma, quindi ce la facciamo oggi forse a chiudere con tutti i pezzi pensati forse, per questa scaletta forse. Loro sono LA Witch, Dog God. I can't. Dog God, pezzo che dà anche il titolo all'album, nuovo album uscito lo scorso 4 aprile delle LA Witch on Suicide Squeeze Records, che è appunto l'etichetta con cui escono. LA Witch tornano tra l'altro qui a Likewise, band appunto della scena californiana, mischiano questo post punk e blues, lo-fi blues come potremmo dire, che ci piace tanto. Questo è il loro terzo album, speriamo che questo bel trio ritorni dalle nostre parti. L'ho visto dal vivo, insomma, il loro primo album e spaccano, cioè c'è un bellissimo basso, una bellissima batteria, quindi proprio delle ritme belle serrate, dal vivo sono molto divertenti, cioè gli piace suonare, quindi insomma è molto bello vederle dal vivo, quindi se vi capita fatelo. Esatto. Sono le 19.54, non aggiungerò altro perché così proviamo a finire la scaletta di questa sera. Pezzo numero 9, Driven, lei e Catherine Moore. Yeah. Questa era Catherine Moore, Driven, il pezzo che abbiamo scelto dal suo album di debutto che si intitola Waiting Room e che esce per l'etichetta The Flancer. In realtà è il debutto su questa etichetta, perché è il suo terzo disco. Ma era un EP, Holly era sì. Un EP e quello precedente era un EP, quindi insomma in realtà questo è proprio il suo primo album vero e proprio, ma insomma per quanto noi, voi sapete che in realtà ci importa poco, è un artista di musica che potremmo definire a metà tra l'elettronica e il folk, che viene da Auckland. Ci sono questo album è molto bello, io l'ho consumato in questi giorni, ci sono momenti più folk riconoscibili in pezzi come Petrified per esempio, che credo sia il quarto pezzo della lista di questo album, ci sono cose meno comode come nel pezzo Will, che poi è diventato la nostra B-side di oggi, oppure in Elevator, che invece fa pensare a una PJ Harvey di Four Track Demos per esempio, oppure Take It, che è un altro pezzo di questo album in cui le chitarre diventano un po' più cupe, un po' più, come posso dire, dissonanti, e fanno pensare anche lì un po' a PJ Harvey di The Bring You My Love, quindi molto molto bello questo album, a me è piaciuto un sacco, me lo sono consumato. Sì, è molto bello, anche se lei in un'intervista dice di aver consumato poco prima o mentre stava scrivendo questo disco Is This Desire di PJ Harvey, questa intervista sì, quindi ci siamo. Questa intervista, peraltro, una alla volta, sta su un magazine online che si chiama Sentire Ascoltare, quindi un'intervista che potete leggere anche in italiano, un'intervista carina, anche perché ci sono diverse particolarità che possiamo raccontare. Primo, il luogo dove è stato registrato questo disco, che è un'ex fabbrica di pesce in un villaggio di cui non vi dirò assolutamente il nome, nell'Islanda. Però ovviamente un'ex fabbrica di pesce convertita in realtà a un centro anche con residenza per artisti. E lei è stata, insomma, è arrivata lì per caso perché una sua amica artista le aveva parlato di questo luogo, gli aveva detto di andare, alla fine le aveva fatto domanda, è andata e quindi in qualche modo lì è nata, insomma, la registrazione di questo disco. Lei è anche andata in giro con un registratore che gli ha prestato, chi in qualche modo tiene il centro, e quindi è andata in giro a registrare, come potete immaginare, quei suoni della natura o anche, insomma, passeggiando, i vari rumori e suoni che si possono ascoltare in un villaggio islandese, ovviamente catturata dalla bellezza di questa natura, insomma, di questo poca distanza che c'è tra natura e uomo, di cui tutti, insomma, quelli che vanno in Islanda parlano ampiamente. C'è secondo me un'influenza che non si dice nessuno, ma io ci sento anche i Sigur Rós. Sarà che il posto è più o meno sempre quello e in qualche modo risuonano da quelle parti. Non lo so, ci devo pensare, me l'ascolto altre 150 volte questa settimana e poi te lo dico. Chiudiamo la scaletta di oggi, puntata 109 di questa Likewise. Lei si chiama Annika Abyss. Madonna, an imposter. Abyss, Anika, pezzo che dà il titolo all'album, una grande uscita dello scorso 4 aprile per la Sacred Bone Records. Per questa musicista tedesca, il nome è Anika Henderson, che spiazza tutto con questa uscita, perché in realtà, per chi conosce la produzione musicale di Anika affonda le radici nell'elettronica, sia dal punto di vista degli strumenti utilizzati che appunto della produzione vera e propria. Ha collaborato con moltissime figure tra le più rappresentative dell'elettronica, almeno dell'elettronica europea. E, diciamo che questo a noi ci era piaciuto anche con il suo album d'esordio del 2021, se non ricordo male, che si intitolava Change. E questo ritorno quindi spiazza, perché comunque in questo album, che è un album di cioè con pochissimi fronzoli, molta sostanza, sono 10 canzoni ben fatte, ben strutturate e anche tantissima chitarra sporca, tra l'altro, esatto, anni 90, quindi proprio una roba che poi si è spiazzato tutto in bene per una volta, no? Esatto, viva le chitarre. Sono le 20.07, Note Cose Città ci guarda dall'altra parte del vetro aspettando di prendere possesso della console e dei microfoni, quindi noi vi stiamo per salutare, vi ricordiamo il radio abbonamento, dateci una mano, adesso dopo la sigla mi mettiamo anche lo spottino, così le petite Juvent, come dicevano i latini. E noi ci sentiamo la settimana prossima. Non fate i bra. Ciao. Ciao. When in a hotel, she looked sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Their eyes looking like the balls popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg.